Yeah. che vi turbò. Sto meglio. Ma in conta guisa ucciderete averve nuovo cura dell'esser vostro. E non potrei. O se mia foste custode degli erei per vostri soavidi. Ne dite a posti alcuna cura di me, perché nessuno al mondo va, nessuno tranne sol io. È vero, sì, grande amor dimenticato mio. Vivete con voi buon cor. Un cor sì, forse, e a lei lo richiedete. Ma se ciò fosse, non potreste allora celiar. Dite davvero? Io non vi inganno. Da molto è che mi amate. Ah sì, da un anno. Un dì felice e altero croce croce delizia, croce delizia, delizia al cor. Ma se ciò mi rinconci, dimmi, solo mi sta di offro, sono franca, scelua, a tracere carne, fine, non ho amato, dimenticami. L'amore mi sferia, non lo troverai, misterioso al te. Addio, i più non brava. Lieta ne ritorni, ma a te lei. Oh, sì, sono quasi in ciò, io vivo in ciò, ma l'universo in me more. Io vivo quasi in ciò, ah sì, io vivo quasi in ciò. Io vivo quasi in ciel. Annina, donde vieni? Da Parigi. Chi te il commise? Fu la mia signora. Perché? Come mai sento? Lo spendio grande a viver qui solinghi. E tacevi? Di cui silenzio imposto. Imposto? Orba bisogna? Vita Luigi. Orbanne andrò a Parigi. Questo colloquio non sappia la signora. Il tutto valgo a riparare ancora. L'avvenir domandor qui siccome un angelo, Iddio mi dia una figlia, se Alfredo nega riedere in seno alla famiglia, la madre amante giovine, cui sposo andar dovea, or si riposa al vincolo che lieti, lieti ne rendeva, de non mutate in trigoli le rose dell'amor, o non mutate in trigoli le rose dell'amor. Non voglia il vostro cor, no, no. Ah, non prego, non troverà alcun tempo d'Alfredo allontanarmi. Doloroso, ora per me. Non è ciò che chiedo. Cielo, che mio c'è ricovere, offersi assai. Pur non basta. Volete di me se a lui rinunzi? È luogo. No, no, no. Angel, come.

chiamarlo, ditegli. Non crederò. Partite. Seguirò me. Allora. Conosca il sole. perdona, son io preoccupato. E tu? Giunse mio padre. Lo vedesti? Ah no, severo scritto mi lasciava. Però l'attendo, camera in vederti. E qui non mi sorprenda, lascia che m'allontani. Tu lo calma, ai miei vestiti mi gemerà. Di mese più non ne vorrà. Sarem felici, perché tu mami, Alfredo.